Noi abbiamo come USB a scuola deciso di venire incontro a una richiesta che partiva dagli studenti della campagna Bassa Alternanza, che appunto, scendendo in piazza con le loro rivendicazioni contro l'alternanza scuola-lavoro, hanno caldeggiato e richiesto la presenza di chi lavora effettivamente nella scuola, quindi tutti i lavoratori del comparto scuola del paese. USB è sempre stata, diciamo, più che critica verso l'impostazione dell'alternanza scuola-lavoro, in generale di tutta la legge 107, che comunque, nonostante i parziali cambiamenti che stanno avvenendo, rimane comunque come impianto assolutamente in essere. E quindi appunto noi pensiamo che una giornata di mobilitazione che veda la presenza sia degli studenti che dei lavoratori della scuola sia un punto importante per quello che debba essere una lotta rivendicativa per un'istruzione degna di questo nome, un'istruzione pubblica inclusiva che ricominci a farsi carico della ragione sociale che ha sempre avuto, cioè quella della trasmissione di sapere, dell'emancipazione intellettuale collettiva di chi ne ha più bisogno. E quindi sì, il nostro piano rivendicativo come sindacato ovviamente prevede l'abolizione della legge 107 in quanto tale, più una serie di altri provvedimenti che dovrebbero essere messi in campo per questo nostro obiettivo, che vanno ad esempio dalla messa in sicurezza dell'edilizia scolastica, visto che abbiamo quasi la metà degli edifici destinati a uso scolastico di questo paese che è a rischio. Abbiamo un punto che riguarda ad esempio la mobilità, visto che con la legge 107 si sono creati diversi casi, più di un caso di immobilizzazione del personale neoassunto, e è appunto un piano di investimenti che faccia sì che gli organici non siano più, come dire, con l'acqua alla gola, sia del personale docente che del personale tecnico-amministrativo, visti i numerosi tagli che comunque si andranno a configurare anche nel prossimo triennio, visto la legge di stabilità messa in campo dal governo. E infatti proprio questo ti volevo chiedere, nel senso che diciamo comunque la 107 e la buona scuola sono manovre del governo precedente, questo governo finora è l'unico forse degli ultimi 20 anni a non aver ancora fatto una riforma della scuola, però insomma in che direzione si sta muovendo, nel senso gli unici cambiamenti forti forse sono stati un po' sul taglio dei fondi all'alternanza e un po' su questa apertura alla regionalizzazione. Esattamente, sì. Diciamo che le due cose sono anche collegate in un certo senso, nel senso che appunto abbiamo una cospicua riduzione del monte ore sia per i licei che per gli istituti tecnici, ore obbligatorie da svolgere in alternanza, però questo diciamo è solo un provvedimento, potremmo dire, di spending review, anche perché non viene messa a critica l'impianto strutturale dell'alternanza scuola-lavoro, e anzi il ministro più di una volta ha dichiarato che potrebbe essere necessario aumentare il monte ore per quei territori che hanno particolare esigenza di venire incontro alle richieste del mercato, e qui entra in campo la questione regionalizzazione, perché appunto con questo processo che andrebbe a aumentare l'autonomia degli enti locali, delle regioni, per quanto riguarda la gestione amministrativa eccetera della scuola, farebbe sì che appunto abbiamo una scomposizione della struttura dell'istruzione pubblica di questo paese, finalizzata appunto alle esigenze di mercato, all'implementazione di un processo appunto di messa a valore degli studenti, di sfruttamento in delle regioni più ricche, fondamentalmente legate a processi di produzione del nord Europa, in un certo senso. E anche proprio sul tema dell'alternanza, visto che tra l'altro così si chiama la campagna che ha indetto lo sciopero, un po' sembrava, dicevamo un po' di tempo fa su queste frequenze, che insomma che il governo abbia recepito in qualche modo solo lo slogan, cioè basta alternanza, perché in qualche modo ha deciso di tagliare le ore, però non è intervenuto appunto, come dicevi tu, diciamo sulla impostazione del pensiero relativa all'alternanza scuola-lavoro. In più ha tagliato i fondi e non li ha destinati a nessun'altra cosa, cioè li ha semplicemente risparmiati. Esatto, sì, cioè comunque come dicevo prima l'alternanza resta, e quindi resta tutto quello che c'è sotto questo progetto, che riguarda appunto un snaturamento totale di quella che è l'istruzione, cioè non più finalizzata all'apprendimento di un sapere, ma finalizzata all'educazione, fondamentalmente alla precarietà, all'assenza di diritti, alla flessibilità totale, e quindi diciamo è un tipo di educazione che prepara al lavoro, ma prepara al lavoro che conosciamo oggi in Italia, il lavoro in cui non ci sono tutele, in cui non ci sono meccanismi di protezione ormai più riguardo ai lavoratori eccetera. Quindi l'impostazione rimane, proprio perché rimane comunque la volontà del governo, che è in piena continuità non solo sulla scuola, abbiamo visto anche su altre questioni con quelli precedenti, insomma.